Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Nel caso Ruby violata la privacy, il governo pensa ad un ricorso alla Corte di Strasburgo. Il presidente della Consulta: non ci sta offensivo dire che siamo di parte. Oggi la memoria delle foibe, Napolitano, un dovere ricordare e guardare avanti. 25 miliardi e mezzo recuperati dall'evasione fiscale, l'economia prova a rialzare la testa, la produzione industriale è cresciuta del 5,5% nel 2010. Gemelline scomparse, spunta l'ipotesi dell'avvelenamento. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Ancora scontro tra magistratura e governo. A rispondere con parole dure è stato questa mattina il presidente della Corte Costituzionale. Nelle stesse ore il governo, per voce del ministro Frattini, ipotizza anche un ricorso in Europa per l'inchiesta dei magistrati milanesi, mentre il PDL sembrerebbe fare un passo indietro. Lo scontro, insomma, è ancora duro. Cominciamo però dalla Corte Costituzionale. Andrea Viali. Sì, è così, Anna, infatti oggi anche la Corte Costituzionale ha deciso di replicare agli attacchi che erano partiti da Berlusconi e dal PDL, soprattutto, lo ricordiamo, dopo la bocciatura del legittimo impedimento. A parlare è stato il presidente della Consulta. È offensivo dire che siamo di parte, ha detto De Siervo stamattina, ma sentiamolo. Le decisioni che vengono infine adottate o all'unanimità o con maggioranze che sono di volta in volta diverse rappresentano il punto di arrivo di un organo sicuramente imparziale. Questo mi permetto di ripeterlo per l'ennesima volta, ma purtroppo devo ripeterlo, che asserire il contrario è denigratorio per la Corte Costituzionale ed anche gravemente offensivo per ciascuno di noi, comunque la si pensi. Questo era De Siervo. Intanto con il caso Ruby la giustizia resta in primo piano anche nel confronto fra gli schieramenti politici. Poco fa dal PDL Cicchitto ha smentito l'ipotesi di un decreto sulle intercettazioni, ipotesi che era emersa ieri in un vertice a Palazzo Grazioli, era stata contestata dall'opposizione ed era poco gradita anche dal Quirinale. Ma sentiamo Cicchitto, poi la linea può tornare allo studio. Qui c'è stato un equivoco perché non mi risulta che ci sia nessuna iniziativa per un decreto, tantomeno un decreto da presentare da parte di Berlusconi al Presidente della Repubblica. Casomai c'è un disegno di legge che è stato in uno stato avanzato di lavoro per quello che riguarda i lavori parlamentari. Quindi ieri si è fatto un notevole polverone su una cosa che non esiste. Grazie ad Andrea Viali. E intanto c'è un altro tassello, dicevamo, il governo non esclude neanche un ricorso all'Europa per la vicenda Ruby, così almeno dice il ministro degli esteri Franco Frattini, che ha parlato nel corso di un incontro alla Farnesina dove c'era Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, così il caso Ruby potrebbe arrivare fino a Strasburgo e ad annunciare quella che potrebbe essere una futura mossa del Premier, proprio il ministro degli esteri Frattini. La violazione della privacy, dice il titolare della Farnesina, è un fatto che può essere portato non solo in Italia ma anche di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A suo dire c'è una giurisprudenza molto ricca in materia e dunque il governo potrebbe presentare un esposto alla Corte denunciando la presunta violazione della privacy di Berlusconi da parte dei magistrati milanesi. Il ministro ha precisato che non sarebbe un rimedio straordinario perché quando un cittadino si sente danneggiato ha diritto a rivolgersi al giudice competente per ottenere tutela. Frattini poi, ad una domanda su un'eventuale causa nei confronti dello Stato, così come ventilato ieri da Berlusconi, non farebbe che alzare il livello dello scontro, ha spiegato il solo fatto di poter immaginare di invocare un cambiamento di governo avvalendosi di metodi giudiziari è di per sé un elemento grave e bisognerebbe tornare alla normalità. E dalla Farnesina è tutta, voi la linea. Grazie anche ad Alessandra Schepisi. Dicevamo, ancora duro lo scontro politico mentre si aspettano le decisioni del Tribunale di Milano. Allora facciamo il punto anche su questo con Raffaella Calandra. La decisione che arriverà martedì. Il giudice Cristina Dicenzo vuole rispettare in pieno la scadenza dei 5 giorni prevista per la richiesta di rito immediato inoltrata ieri dalla Procura di Milano per Silvio Berlusconi. Chiusa nel suo ufficio al 7° piano del Palazzo di Giustizia, un ufficio presidiato da carabinieri e telecamere, dopo un'attentata infrazione mesi fa, il GIP sta studiando il faldone Ruby per stabilire se vi sia o meno quell'evidenza della prova necessaria per mandare direttamente a processo il premier Premier per concussione e prostituzione minorile. In una decina di pagine i PM elencano le loro fonti di prova, i verbali di Ruby, le relazioni degli agenti della questura, gli esami su cellulari e soldi fino alle intercettazioni. Non ci sono invece, come vi abbiamo già anticipato, i verbali della escort Nadia Macri, né le 5 telefonate del Premier che saranno distrutte perché irrilevanti. A breve sarà chiuso anche il troncone principale dell'inchiesta che coinvolge Laminetti, Emilio Fede, Lele Mora e altri 3 indagati. Per Berlusconi, se il verdetto del GIP di Cenzo, la stessa che dispose l'arresto di Massimo Tartaglia, l'uomo che aggredì Berlusconi, dovesse essere il rinvio a giudizio, il dibattimento sulla vicenda Ruby finirà per incrociare i vecchi processi del Premier, scongelati dopo la pronuncia della Consulta sul legittimo impedimento. Il 28 febbraio ricomincia infatti Mediaset, il 5 marzo Mediatrade, l'11 Mills, e sullo sfondo restano volta per volta i legittimi impedimenti dell'imputato Premier e degli avvocati onorevoli, insieme alla prospettiva di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, tanto sugli impegni delle parti quanto sulla competenza territoriale del caso Ruby. E questo dunque il punto sul fronte delle inchieste. Il Premier Berlusconi era atteso questa mattina al Quirinale per la cerimonia in memoria delle vittime delle foibe con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Non è invece arrivato il Presidente del Consiglio. Ieri il Premier aveva annunciato l'intenzione di incontrare oggi il Capo dello Stato. Si era ipotizzato che l'occasione del colloquio potesse essere proprio la giornata per il ricordo delle foibe. Così non è stato. Napolitano ha parlato invece delle foibe, del passato, del ricordo, ma sentiamo Paolo Piacenza. Buongiorno Anna, come hai detto oggi si celebra la giornata del ricordo che rievoca i fatti legati alla fine della seconda guerra mondiale lungo il confine orientale giuliano-dalmata. Si ricordano le vittime della violenza delle truppe di Tito, delle foibe, ma anche i tantissimi italiani costretti a lasciare le loro case. Un conto esatto non è mai stato possibile, ma gli studi più recenti fissano il numero delle vittime tra 5.000 e 11.000 e quello degli esuli a circa 350.000. Oggi l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ha calcolato che siano circa 1 milione i discendenti e 50.000 gli esuli ancora viventi. Nella cerimonia al Quirinale il governo era rappresentato dal sottosegretario Letta e dal ministro La Russa. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha ribadito che il ricordo è un dovere, che non si possono cancellare le sofferenze del proprio popolo, spiegando però che ora si può guardare avanti in nome del comune orizzonte europeo. Sentiamo Napolitano. Le nuove generazioni slovene, croate, italiane si riconoscono in una comune appartenenza europea che arricchisce le rispettive identità nazionali. Siamo ormai o stiamo per diventare tutti cittadini europei. Possiamo guardare al passato come sono riusciti a fare tanti altri stati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica dopo essersi combattuti aspramente e con devastazioni profonde e reciproche in un passato non lontano. Il sacrificio delle generazioni che ci precedono non è stato versato invano se oggi possiamo insieme costruire un avvenire migliore per i nostri popoli e per l'Europa. Proprio in nome di questa comune identità europea da costruire, il capo dello Stato ha fatto sua la proposta di Enzo Bettiza di costruire con croati e sloveni un parco della pace lungo la frontiera da Caporetto a Duino. Ed è tutto. E grazie anche a Paolo Piacenza. Prima dell'economia apriamo la pagina della cronaca, perché quella che si fa strada è un'ipotesi inquietante nella vicenda delle gemelline scomparse dopo il suicidio del padre. Maria Piera Ceci. Sì, purtroppo è da registrare una novità che non lascia presagire niente di buono. Abbiamo già detto che gli investigatori svizzeri stavano esaminando il computer di Matthias Schepp, che lo ricordiamo si è suicidato il 3 febbraio nel Foggiano, dopo aver preso in consegna le sue due gemelline di cui non si ha notizia dal 30 gennaio e dopo aver vagato fra la Francia e l'Italia. Bene, Matthias nei giorni precedenti alla sua fuga avrebbe visitato alcuni siti dove si trovano consigli e materiali per l'avvelenamento. L'ipotesi purtroppo che si fa strada è che Matthias possa dunque aver avvelenato le due bimbe e le possa aver trasportate nell'auto a bordo del traghetto che lo ha portato poi da Marsiglia in Corsica. A questo punto potrebbe essersi disfatto dei due corpi in acqua oppure potrebbe averli seppelliti in Corsica. Per questo si sta scavando vicino al porto di Propriano. Intanto, per il caso, ha fatto sapere il ministro dell'Interno Maroni, è stato attivato anche l'Amber Alert, un sistema di allerta ad hoc per i minori scomparsi che dirama immediatamente foto e segnalazioni a tutti i paesi dell'area Schengen e all'interno Pollat e Anna. E grazie anche a Maria Piera Ceci. Siamo dunque all'economia. 25 miliardi e mezzo recuperati dal fisco nel 2010 è la cifra comunicata oggi dall'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione. Una cifra, fanno sapere, destinata a crescere. Segnali positivi arrivano anche dalla produzione industriale. Nella media dell'intero 2010 è cresciuta del 5,5% dopo due anni in calo e dopo il tonfo del meno 18,4% nel 2009. Secondo l'Istat rimane comunque ancora il divario rispetto ai livelli pre-crisi. E a lanciare l'allarme è la Banca Centrale Europea. Per il momento il tasso di riferimento dell'Eurozona resta fermo all'1%, ma la Banca Centrale Europea alza la guardia sull'inflazione. I rincari delle materie prime del petrolio, dice la BCE nel bollettino mensile pubblicato oggi, stanno facendo aumentare le pressioni sui prezzi, tanto che l'Eurotower sconta già un'inflazione sopra il 2% per larga parte del 2011. Per adesso però nessun rialzo dei tassi, anche perché i rischi per l'economia ci sono ancora e minacciano quella ripresa che, anche in Europa, inizia a consolidarsi. In questa direzione la BCE invita i paesi europei a non abbassare la guardia sui bilanci pubblici. Nel 2011 sarà necessario attuare completamente i rispettivi piani di risanamento e, se necessario, bisognerà applicare anche ulteriori misure correttive. E il risanamento, conclude la BCE, passa per il contenimento della spesa pubblica. Claudio Celio, da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti, dopo il viaggio di ieri in treno, oggi è in pullman di ritorno a Roma da Reggio Calabria, sempre insieme ai leader sindacali Bonanni e Angeletti. Devo andare a prendere il treno e quindi sarò molto sintetico. Per una, non per andare a trovare, non deve andare a trovare nessuno. Spiegherà perché è una iniziativa molto meritevole. In conferenza stampa ieri il ministro dell'economia, supportato dalla premier Berlusconi, aveva annunciato così il viaggio verso sud, in treno, che in 7 ore e 12 minuti, 2 di ritardo, lo ha portato da Roma a Reggio Calabria per verificare lo stato dei trasporti nel meridione d'Italia. 3 ore da Milano a Roma, molte più ore, da mezzogiorno alle 19 per venire a Reggio Calabria, quindi non è che poi va tutto così bene. Ministro insoddisfatto dunque dello stato della rete ferroviaria e soprattutto dei servizi offerti, toilette senza acqua o senza sapone, convogli vecchi poco puliti. Lo ha detto all'amministratore delegato Moretti, che lo ha chiamato al telefono dopo l'annuncio dell'iniziativa. Oggi il ritorno in pullman da 15 posti, partito da Reggio Calabria alle 8.30 e subito alle prese con i primi problemi. Un tratto di 40 km della ben nota A3, ricco di cantieri aperti, dove si è proceduto a 50 all'ora. Si lavora, ha osservato poi Tremonti, anche se vedo più mezzi che operai. Con il ministro viaggiano i segretari Cisle Will, Bonanni e Angeletti, non invitata la Camusso, un'assenza che Bonanni commenta così. Ognuno è dove vuole essere. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le notizie di oggi di GR24, il PDL fa un passo indietro, nessun decreto sulle intercettazioni, il governo pensa ad un ricorso alla Corte di Strasburgo, Frattini nel caso Ruby violata la privacy. Il presidente della Consulta non ci sta, risponde alle polemiche, offensivo dire che siamo di parte. 25 miliardi e mezzo recuperati dall'evasione fiscale, l'economia prova a rialzare la testa, la produzione industriale è cresciuta del 5,5% nel 2010. Gemelline scomparse, spunta l'ipotesi dell'avvelenamento. Ripartiamo però, come dicevamo, dalle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia e dall'ennesima politica che questa volta investe la scuola. Il ministro dell'istruzione Gelmini vorrebbe i ragazzi sui banchi il 17 marzo. Poco fa i presidi hanno detto invece no. Se per il ministro la ricorrenza potrà essere celebrata in classe dedicando una particolare attenzione al tema, dice il leader dell'Associazione Nazionale Presidi Giorgio Rembado, non si possono fare guerre di principio su una celebrazione così importante. Noi allora abbiamo chiesto che ne pensano ad alcuni presidi. Questa festa non si tocca, dice Tommaso De Luca, preside dell'Istituto Tecnico Avogadro di Torino, 200 anni di vita, al microfono di Maria Piera Ceci. Siamo nati prima noi e poi l'Italia, vede che quindi, ma secondo me io non vedo alcuna tragedia nel saltare un giorno di scuola. Personalmente le dico che noi organizzeremo un'occasione di celebrazione. Quindi niente scuola, però in realtà si viene a scuola proprio per ricordare, per esatto, celebrare questa data. I nostri ragazzi stanno già lavorando a questo progetto, il centro sarà il 17 marzo al pomeriggio, in particolare anche con un collegamento via internet con un celebre liceo classico di Roma, perché le due capitali è bene che festeggino nella data simbolo. Di tutt'altra opinione il preside dell'Istituto Tecnico Ferraris di Verona, Dino Poli. Si festeggia senza chiudere la scuola, festeggia all'interno della scuola normale, non si perdono ore né minuti di lezione. E che fate quel giorno? Gli insegnanti daranno una nota, la stanno già facendo tutto l'anno, diranno che c'è il 17 marzo, è la data in cui si ricorda la creazione del tricolore, punto. Come mai questa scelta? Perché l'insegnante fa già l'azione educativa, già spiega, già in storia tutti questi aspetti, non dobbiamo perdere tempo, perché ogni giorno ce n'è una, oggi è la giornata del ricordo, tutto il problema dell'Istria, il problema delle foibe, ma domani ce n'è un'altra, ogni giorno c'è il suo anniversario e ogni giorno è il non anniversario. Non interrompiamo la scuola, che l'educazione dei ragazzi è difficile e richiede molto tempo, molto impegno, quindi secondo me non si deve mai interrompere, il meno possibile. Una polemica dunque davvero senza fine. Voltiamo pagina noi per ora, andiamo all'estero, andiamo in Oriente, dove due grandi navi acquistate nei giorni scorsi da Mosca preoccupano Tokyo. In studio con me c'è Gigi Donelli. Sì, sentivo parlare di date simbolo, beh, anche in Estremo Oriente ce ne sono molte, sicuramente una di quelle che fa pesare e crescere la tensione tra i due paesi oggi è quella della fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa accade? Due grandi navi dunque acquistate nei giorni scorsi da Mosca, sono due navi francesi, classe Mistral, saranno dispiegate nell'estremo oriente russo, naturalmente dalla flotta di Mosca, e saranno impiegate molto vicine alle isole Curili, che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sono contese di fatto tra Mosca e Tokyo, nel senso che Mosca le occupa, Tokyo le pretende. I russi erano stati abbastanza prudenti nei decenni che sono susseguiti appunto al conflitto, ma a novembre scorso il presidente Medvedev, quindi un uomo diciamo di pace almeno nella percezione internazionale, visita per la prima volta queste isole. A Tokyo succede il finimondo e quando ieri è circolata la notizia che queste due navi saranno dispiegate in quella parte dell'Oceano Pacifico, a Tokyo sono andate anche in fiamme delle bandiere russe. Insomma, Tokyo è preoccupata anche perché contemporaneamente nell'estremità sud del suo grande arcipelago i cinesi sembrano interessati ad altre isole contese. Insomma, la Russia si rafforza, ma non è la sola a farlo. Assolutamente, il Pacifico vuol dire Russia, Corea del Nord, Corea del Sud e poi la Cina, davanti il Giappone e più a sud Taiwan. Insomma, un quadro da risico geopolitico in cui l'Oriente si confronta agli Stati Uniti. Solo poche settimane fa i cinesi hanno annunciato di avere in dotazione un importantissimo strumento antiportaere che, come dire, sembra un messaggio sul futuro del ruolo americano in questa parte del mondo. La preoccupazione cresce e naturalmente, come accade sempre nella storia, spesso si comincia da piccole isole che non interessa a nessuno. E insomma, una parte del mondo di cui si parla poco, ma che è invece molto più cruciale di quanto non si pensi. Grazie Gigi Donelli, noi rientriamo in Italia e rientriamo invece con la cronaca di casa nostra. Un summit di Camorra è stato interrotto la scorsa notte dagli inquirenti della squadra mobile di Caserta a Casal di Principe. Sette le persone sorprese mentre attorno a un tavolo discutevano a casa di un insospettabile, tra i fermati diversi elementi di spicco. A Milano invece un'altra brutta storia di violenza e questa mattina sono scattati arresti. Erano in quattro e volevano dei soldi. Il ragazzo, 16 anni, non ha ubbidito. Tanto è bastato per scatenarli, pugni, calci in faccia, fino a fratturargli la mascella e mandarlo all'ospedale con gravi traumi e lesioni. Tutti e quattro, giovani tra i 20 e i 25 anni, sono stati arrestati oggi dai carabinieri di Milano perché ritenuti responsabili del pestaggio avvenuto sabato scorso in Viale Monza. Una strada trafficata, soprattutto al sabato sera, quando verso mezzanotte è avvenuta l'aggressione. Il ragazzo ora sta meglio, anche se la prognosi resta di 90 giorni. La sua colpa è stata quella di uscire da una festa al momento sbagliato. Mercoledì il padre Sergio Bonomi, autore di una toccante lettera a quotidiane e istituzioni, aveva lanciato un appello perché i responsabili dell'aggressione si costituissero. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sci, dopo la medaglia d'oro conquistata ieri nel Super G, l'azzurro Hinnerhoffen ha ottenuto il miglior tempo nella prima prova della discesa libera maschile questa mattina. È in programma sabato a Garmisch per i mondiali di sci. Apriamo un'ampia pagina di spettacoli, il Festival del Cinema di Berlino innanzitutto, che si apre oggi. Una sedia vuota con il nome di Jafar Panahi accanto a quello della presidente della giuria Isabella Rossellini. Così si è aperta la 61esima edizione del Berlino Film International Festival, che avrà il battesimo cinematografico questa sera con la proiezione del film fuori concorso Il Grinta dei fratelli Cohen. Lo aspettiamo, hanno detto con determinazione i membri della giuria, riferendosi al regista iraniano condannato a 6 anni di carcere per propaganda anti-islamica. Domani, anniversario della rivoluzione islamica, provocatoriamente sarà proiettato Offside, film con cui Panahi si aggiudicò il Leone d'Argento nel 2006. Panahi è il simbolo della libertà d'espressione, ha detto Isabella Rossellini. Vedremo se la determinazione della giuria berlinese sortirà lo stesso effetto delle lacrime di Juliette Binoche a Cannes, che aprirono al regista iraniano provvisoriamente le porte del carcere. Cristina Battocletti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. Apre oggi al pubblico a Palazzo Reale a Milano una grande mostra dedicata ad Arcimboldo. L'esposizione, in programma fino al 22 maggio, approfondisce lo stile, la vita e le opere di questo artista milanese, dallo stile davvero molto personale e innovativo. Silvia Ferino, la curatrice, al microfono di Adriana Fracchia. Di Arcimboldo si conoscono relativamente poche teste nel suo oeuvre, sono meno di 20 e qui in mostra abbiamo una quindicina, e il fantastico è che abbiamo per la prima volta cercato di inserire Arcimboldo nell'ambiente milanese, e per questo abbiamo in toto in mostra oltre 300 opere, e la mostra è strutturata in 9 sezioni che fanno capire come lui sia e come lui e le sue invenzioni siano il frutto della tradizione artistica milanese. Ecco, che cosa ha ancora di attuale Arcimboldo? Ma lui sorprende tuttora e sempre di nuovo, perché fa queste teste umane che però li riempie di oggetti, di cose, e in questo trasforma il viso, e questo sorprende sempre. Arcimboldo, allievo di Leonardo, e come lui influenza poi le nature morte di Caravaggio. E da oggi in mostra a Milano. Come dicevamo, ampia la pagina della cultura quest'oggi. Per la letteratura parliamo del Campiello, un premio che sicuramente conoscerete, ma gli italiani che ne pensano? Come è considerato il Campiello? Come può cambiare? A queste domande risponde una ricerca dell'Astra condotta fra gli addetti ai lavori, editori, librai, scrittori, giornalisti, che hanno dato i voti al premio. Complessivamente il Campiello incassa un bel 7,5. In particolare, per il 70% è uno dei migliori premi d'Italia. 7 su 10 lo considerano serio. A essere apprezzata è anche la trasparenza, 57%, perché lo ricordiamo, a scegliere fra una cinquina e una giuria di 300 lettori. Solo per il 26% è un premio contro lato dagli editori più forti. Nel confronto con gli altri premi, soprattutto lo Strega, considerato il principale concorrente, il Campiello viene valorizzato. Rispetto agli altri, ha migliore o la stessa validità per l'87%. Quanto alle vendite, il Campiello li aiuta come o più degli altri, secondo il 50% degli intervistati. Non mancano naturalmente le critiche, ma sono limitate. C'è chi lo considera vecchio e polveroso, 1%, banale e scontato, 2%. Infine i consigli. 4 intervistati su 10 hanno proposto di creare un premio per le case editrici emergenti. Suggerimento raccolto. Dal 2012, edizione numero 50 del Campiello, ci sarà un premio per i piccoli editori scelto dai librai. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E io come sempre vi lascio a Italia in controluce. GR24 torna invece alle 14 in regia Filippo Reggi. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. We'll be right back.